Qua è proprio un casino. Sta succedendo, penso che quello che succede è proprio che si sta sviluppando un, non lo so come dirlo, una confrontazione fra due colombe. Una che è rappresentata per la gente comune, diciamo, quella gente particolarmente la gioventù. Quindi quello che stiamo guardando nella strada è una gioventù antifascista, è una gioventù antiautoritaria, è una gioventù che sta veramente stanca di tutto, ha una storia indietro, che ha finito in un contesto nel quale non c'è un'alternativa, non c'è niente per il futuro. Quindi le ragazze stanno veramente stanche, sono nelle strade ogni giorno, e quello che sta succedendo è una trasformazione di un conflitto che prima è alla strada, con un contesto e una storia di abuso e anche di violenza senza dimensioni da parte della polizia e anche dell'esercito. Storicamente è stato nella Campania, ma che ora è proprio la città che stiamo guardando. Non lo so se questo l'avevi guardato, ma un elicottero di guerra nella città, sparando alla gente, a casa della gente, nel quartiere. Alla notte passano i poliziotti con l'esercito e anche con gruppi paramilitari, sparando alla casa della gente. Se ti prendono nella strada, nella notte, poi non si sa niente più di te. Stiamo parlando di più di 500 persone che non sappiamo dove sono. Stiamo parlando di un'epoca pure dei terrori. Questo è il fascismo pure qua. E come trasmettere a vivo il massacro di tutta una generazione. Questo va così. Se lasciamo questo perdere, poi saremo vittime dei poliziotti nella notte. Perché quei poliziotti violentano le donne. Perché quei poliziotti sparano alla gente. Perché quei poliziotti stanno organizzati proprio come una mafia. Sono il corpo armati della mafia. E quello che noi abbiamo qua è proprio una narcodittatura, lo dobbiamo dire così. Non ne stiamo aspettando che arrivi la pronunzia dell'Unione Europea, non ne stiamo aspettando questo. Perché questo non è proprio niente ai ragazzi nel quartiere che stanno resistendo. Ma quello che abbiamo bisogno è proprio la solidarietà di tutti gli antifascisti nel mondo. Abbiamo la solidarietà di tutti quelli che hanno detto che hanno il cuore in America Latina, perché qua si sta, questa è la nostra primavera, se la lasciamo perdere, stiamo guardando quello che sta succedendo a Brasile, quello che sta succedendo anche alla Palestina, la stessa strategia, è lo stesso. Scusa Nelson, Quindi dove fermerà? mi senti? Riesci a sentirmi bene? Sì, Scusa, certo, c'è che noi qua sento. i mezzi non sono comodissimi. Io volevo farti una. Vabbè, a parte il fatto che vi faccio i complimenti per la forza che state dimostrando di scendere in strada e ribellarvi a tutto questo. In Italia, nonostante la pandemia, non ce n'è di gente arrabbiata. Non so come mai, non si capisce, ma se anche le persone sono arrabbiate rimangono a casa, non scendono in piazza, non fanno gli scontri, non vanno nemmeno, non so, a dire a quel politico che è un incapace, non succede assolutamente niente purtroppo. Io questo volevo chiederti, molto spesso si dice che ci sono le rivolte quando un paese sta vivendo un momento di sviluppo economico. In Colombia, in questo momento, cioè c'è lavoro, c'è la possibilità di lavorare, ma poi alla fine i poveri rimangono sempre poveri, le donne rimangono sempre emarginate. O non c'è possibilità di lavorare, la gente non riesce ad arrivare alla fine del mese, non riesce a comprarsi da mangiare, non riesce a pagarsi l'affitto. Cioè, com'è la situazione in questo momento in Colombia? Si fa fatica a vivere o si riesce a vivere, ma c'è chi diventa sempre più ricco e chi rimane comunque povero? È un po' così, sa? Questa è come la storia basica di tutti i paesi dell'America Latina. Noi abbiamo un contesto particolare, tra pochi anni, abbiamo un processo di pace che tutto il mondo aspettava, che era proprio lo sviluppo economico del paese, o così lo avevano venduto. Ma quello che ha successo è proprio quello, che il ricco diventa più ricco, il povero diventa più povero, e con una condizione particolare che è proprio la migrazione dei venezuelani, ma una poverità che no, del quale non si può parlare. Noi siamo un paese che veramente siamo un tesoro, abbiamo di tutto a livello agricolo, ma qua la gente muore di fame, i bimbi muoiono di fame, la terra è proprietà di pochissima gente, di pochissime famiglie. Quindi quello che sta succedendo è che i ragazzi stanno guardando sull'internet, stanno guardando nel cellulare, stanno guardando sui social. Tutto quello che sta succedendo è che non si può nascondere più. È una gioventù che è politizzata, è una gioventù che ha trovato nell'antifascismo, nell'antiautoritarismo, una via per di espressione. Quella gente che sta lottando è gente dal quartiere, gli operai. A Cali, per esempio, ieri era una pronuncia della prima linea, che si chiama qua, quella prima linea della gente che si sta difendendo con il San Pietrino, con la pietra, contro i fusili, contro gli spari dell'esercito. Quindi quello che sta succedendo è che qua non si può vivere, non si può vivere. Questo è un stato di terrore. Un stato di terrore dove te non dici niente e ti alzi alle 4 della mattina, vai a lavorare per stare al posto di lavoro alle 6 e mezzo della mattina, per lavorare finché 6 e mezzo di pomeriggio, 7 della notte, prenderti l'autobus a casa e fra 2 ore arrivare a casa, che è all'altro posto della città. E questo è lo normale. Quindi c'è un contesto veramente di un colonialismo storico mentale, di una società coloniale che sta in confrontazione con una gioventù che è stanca, che non c'è una via per pensare il futuro. Qua essere giovane è un crimine, è un crimine. Si te vede diverso, si te vedi come ti vedi, come ti visti, come la musica ti senti, dove sei, con chi sei, cosa fai, quello è un delitto. Se sei nel posto sbagliato, nell'attimo sbagliato, puoi morire. Va così oggi. Va così oggi. Quindi sì, è una situazione, qua non c'è uno sviluppo economico, qua c'è il fracasso di un modello economico che è stato implementato per una mafia di carattere anche neoliberale, con un discorso neoliberale, economicamente neoliberale, ma con una pratica puramente fascista. Quindi è come quello che stiamo guardando ora, è una versione 2.0 di quello che hanno stato provando a fare a Cile. Infatti il ex presidente Uribe c'è stato sul Twitter parlando di una teoria di, non mi ricordo ora proprio come il nome, atomica, della rivoluzione atomica, non lo so che roba, che proprio una roba, che un'interpretazione anche sbagliata di un nazi di Cile. Quindi stiamo parlando di uno che sta parlando lo stesso linguaggio dei nazifascisti cileni. Nelson, tu che hai una storia di lunga militanza in Colombia, a Bogotà, come penseresti di descrivere questa gioventù? Che se senti che abbia delle rivendicazioni, delle modalità di azione e un linguaggio e anche della prassi politica un po' diversa rispetto a quelli alla tua generazione, che insomma in qualche modo ha partecipato in altri tipi di mobilitazione, stiamo già parlando di qualche decennio fa, però volevo sapere da parte tua se ti ritrovi tu in questa generazione, se condividi le pratiche, se trovi che siano in qualche modo diverse, se pensi che anche l'uso dei social media in qualche modo possa agevolare la comunicazione politica di questi giovani che partecipano nelle rivolte in strada. E poi anche sapere, tu parlavi di una rivolta generalizzata, e fino a quanto sarà disposta ad andare avanti questa generazione nuova, perché quel quadro che tu hai descritto è che naturalmente questa generazione ormai ha ben poco da perdere, è una generazione assolutamente abbandonata a se stessa ed è una generazione che ha sofferto le pratiche autoritarie già da molti anni, con omicidi di Stato, crimini di Stato, sparizioni, oltre al quadro del conflitto armato, che magari ne parleremo anche più tardi. Sì, ma quello che va bene, io ti parlo di quello che guardo alle strade nella mia città, e anche qualcosa che avevo sentito da altre città tipo Cali. Quella di gioventù per me, dico, è come una roba di carattere di confrontazione generazionale, nel senso che io mi trovo più identificato con questi giovani che con la gente della mia generazione, sai? È come che quella, per esempio, una consigna, non lo so come si dice, uno slogan che si trova troppo anche nel Muri, è l'ACAP. Quindi questo di dove vieni? Della generazione dei primi punk, della generazione dei primi Redskins, della generazione dei primi hardcore, della generazione che era la prima generazione, va bene, la seconda anche, generazione che era in confronto totale contro i poliziotti, che erano una generazione che volevano fare la politica anche in un contesto di guerra permanente contro la sinistra. Quindi se questa gente ha stato in questa storia di resistenza, questo che stiamo guardando è una gioventù che era attenta a questa situazione, che era attenta a guardare a una generazione di gente che era resistendo, che parlava di ehi, state attenti che Uribe è un paramilitare, state attenti che stanno ammazzando le gente nel quartiere, state attenti che stanno ammazzando gli indiani, state attenti che stanno ammazzando nella Campania. Ora quello che stiamo guardando è una generazione che sta vivendo da prima, nella prima linea, tutta questa repressione. Non è solamente una repressione, diciamo, di carattere pratico fisico, una violenza fisica quotidiana che esiste, ma anche una violenza di carattere, diciamo, più profonda, di come ti vedi, di come parli, di come ti visti, una marginalizzazione di carattere storico, della quale questa generazione è veramente stanca. Quindi quello che stiamo guardando è veramente una generazione che voglia tagliare tutto quello che rappresenta un passato, una generazione antica, che identificano col fascismo, che identificano con la repressione, che identificano con non si può andare di notte, devi andare a chiesa, e devi andare a una scuola col prete, tutto questo che è antico, che è coloniale, e che queste ragazze non vogliono più. Quello è proprio lo che sta succedendo. Quindi è una mistura, diciamo, di tante altre situazioni. Prima non c'è un'alternativa economica, poi c'è un conflitto di carattere generazionale, ovviamente, ma anche di carattere politico. Questa è una generazione che politicamente è diversa dai suoi genitori, che sta giocando un papele principale di portare il debate politico a casa. Stanno portando il debate politico a casa. Stanno dicendo ai suoi genitori: io non sono di destra, io non voglio la destra più. Ma anche sono critici per dire alla sinistra: neanche voglio tutto la sinistra. È una gioventù che ha la fame di essere parte del mondo, parte del mondo. Quindi quello che penso succedano, c'è una frattura finalmente generazionale, quindi io, una parte di me è felice veramente di guardare la città piena di ACAP, quindi è bello di guardare anche. Scusa Nelson, io volevo farti una domanda, perché della Colombia, la gente si sanno, come immagino anche in Colombia, dell'Italia, si sanno un po' di luoghi comuni, no? Tutto quello che si racconta di sbagliato o completamente casuale riguardo al narcotraffico e anche alla guerriglia delle FARC. Ma dato che, per esempio, in Italia ci sono stati dei gruppi armati che adesso non esistono più, sono completamente sciolti. Lì in Colombia, dove comunque una guerriglia armata esiste ancora, questi scontri, cioè le persone che fanno gli scontri, fanno i riot nelle città colombiane, che sono comunque giovani anti-autoritari, antifascisti, quindi magari di idee comunque vicine magari a quelle delle FARC, entrano in relazione con la guerriglia armata organizzata delle FARC, o sono due cose differenti e non entrano in relazione? Cioè, c'è una connessione tra le due cose? Ci sono rappresentanti delle FARC che vanno a parlare con i ragazzi che fanno i riot, o giovani che scelgono poi di andare a combattere insieme alle FARC proprio perché partono facendo gli scontri in città? No, senti, non c'è una relazione di giusta nella confrontazione attuale. Qua ha finito quella storia della guerriglia. C'è una nell'esercito di liberazione nazionale, ma non c'è la capacità per stare nelle città, non c'è ora proprio la capacità di attuare in questo contesto, e neanche c'è, diciamo, non è supportato per la comunità, quindi non fa presenza qua nella città, dico. Ma quello che stiamo notando, quindi, sono dei ragazzi che non c'è una preparazione nel riot, e stanno imparando ogni giorno come la confrontazione, quindi stanno con la pietra, che sono con il massimo, penso, il molotov, incontro di un esercito che sparano e che ci stanno resistendo ogni notte. E alla TV stanno dicendo: sono dei ragazzi che vogliono fare un casino. Poi un giorno indietro hanno detto che anche sono dei venezuelani infiltrati. E così vanno, ogni giorno è un nemico diverso. Ma no, non c'è la presenza. Così va là, così è evidente, diciamo, che la gente davvero pubblica sul social del video dove si vede la gente che alza le mani, ma un sacco di video dove la gente alza le mani. Evidentemente ieri, questo lo devo raccontare, sì. Ieri no, ma il giorno scorso a Cali è arrivata una manifestazione degli indiani che si chiama Minga. Magari già, come sicuro, può parlare meglio di questo. Sì, se vuoi. E faccio... sono arrivati. Sì, dai. Sì, se vuoi faccio un breve riassunto, diciamo, giusto per. Prego. C'era una mobilitazione del CRIC e di molti altri militanti indigeni, delle popolazioni indigene, soprattutto nel nord del Cauca. ricordiamo che la Colombia ha 102 popoli e nazionalità indigene e, come altri paesi dell'America Latina, ha una forte storia di rivendicazione politica, territoriale e autonomica. Uno dei principali movimenti è rappresentato dal CRI, che non solamente, diciamo, da altre associazioni di natura indigena, con rivendicazioni territoriali, linguistiche e con una rivendicazione anche autonomica. E hanno una storia organizzativa. Ormai il CRIC quest'anno compieva 50 anni di organizzazione, quindi anche comunque un'organizzazione politica e una militanza già abbastanza rafforzata di varie generazioni. E stava in questi giorni assolutamente partecipando attivamente alla mobilitazione del Paro Nazionale. E la mobilitazione in generale è partita dal nord del Cauca e da altre zone del paese e raggiungeva andava in direzione della città di Cali, che in questo momento è in qualche modo l'epicentro della protesta urbana, oltre alla città di Bogotà, oltre a Medellín e le altre principali capitali dipartimentali. E normalmente queste popolazioni indigene e i movimenti indigeni si spostano in massa su questi camion che si chiamano Chivas, delle mobilitazioni assolutamente enormi in direzione delle città, bloccando la carretera panamericana che è la principale arteria infrastrutturale del paese. E questa mobilitazione degli indigeni è stata fortemente non solo repressa, ma è anche stata attaccata da civili, molto spesso, molto probabilmente civili paramilitari, che hanno sparato direttamente sulla mobilitazione. E questa è una notizia di domenica, lunedì, dove ci sono stati diversi feriti nella città di Cali, oltre ai feriti che naturalmente si registrano in tutte le notti di scontri sempre nella città di Cali, ma è un attacco che comunque la Guardia Indigena a questa associazione, questi movimenti del CRIC e altre associazioni indigeni, movimenti indigeni, si organizzano anche con un tessuto di salvaguardia e di auto-organizzazione chiamato Guardia Indigena, che tutela la salvaguardia e il rispetto dell'integrità territoriale e delle persone, perché stiamo parlando di una popolazione che vive sotto il rischio di sterminio dalle nuove pratiche paramilitari e non solo in certe zone del paese. È stata attaccata nella città di Cali, all'ingresso a Jamundí e in altre zone della città. È stata attaccata al loro ingresso verso la Università del Valle, che è l'Università di Cali, è una delle principali università pubbliche del Valle del Cauca, che è un dipartimento nel sud-occidente del paese. E la Guardia Indigena è presente con i suoi bastoni, che è il loro segno della giustizia ancestrale, a difesa della propria comunità. E la Guardia Indigena e le altre popolazioni, e la popolazione Nasa, ma anche altri popoli, sono presenti ora nella città di Cali. Ho sentito in questi giorni che stanno chiamando a una mobilitazione dal nord del Cauca a scendere a Cali. Non so se Nelson può confermare che per i prossimi giorni si sta pensando a una mobilitazione di massa di queste popolazioni del nord del Cauca. Sì, certo, se vanno a mobilizzare tutto il mondo. Ieri, l'altro giorno, non lo so se l'avevi guardato, qua sta succedendo proprio un casino. Io quello che volevano dire è qua un scenario di guerra dove stanno massacrando gli indigeni, stanno massacrando i ragazzi, stanno massacrando, davvero stanno ammazzando la gente. Poi da questo devo dire, la gente anche resiste, quindi sì, certo, quello che stiamo guardando con quello che hai detto è una società razzista, fascista, che si sta evidenziando nella strada. La gente le gridano, questa gente le stanno gridando nella strada delle parolacce all'indigene. Sai, è una roba davvero pazzesca. la gente spara, no, le indigeni, quindi sì, certo che c'è una mobilizzazione massiva, enorme, anche ieri ha avuto una, perché qua è come, va bene, la gente sta stanca, quello che c'è una riflessione che mi sembra interessante di dirle, che è la prima volta che l'avevo sentito davvero, che la gente che sta dicendo va bene, sì, ci devo morire così, vado a morire, ma sono stanco, non si può ammazzare a tutta una generazione. Mi sembra di sì, devo dire, con lo Stato colombiano mi sembra di sì, l'avevo guardato prima, quello che mi fa davvero, non so come dirlo, mi fa pensare che siamo in una situazione dove si deve dire ai compagni, ci abbiamo bisogno di tutta la solidarietà, non ci abbiamo niente di più, non ci abbiamo la media, non ci abbiamo la TV, sulla TV non si dice niente, figurati, stanno dicendo più al telegiornale, agli Stati Uniti, che qua. Qua le telegiornali stanno parlando che gli indigeni non lasciano entrare il cibo alla città. E quello non è vero. Quindi stiamo come nel 600, hai capito? Nel 500 stiamo, dove una parte della società bianca è spaventata che gli indigeni magari entrano a casa per bruciarti. A questo livello stiamo. Abbiamo perso un'elezione per ratificare la pace e con l'argomento di dire che c'aveva un laser per farti omosessuale hanno spaventato alla gente che pensava che si vinceva la ratificazione della pace. Qua arrivava il comunismo, ma anche se facevano gay con laser. Così. Beh, ridicolo. Come una bella prospettiva, sì. Tutto sommato. No, ma sono così, ti sto dicendo. Questo è il livello del fascismo che stiamo guardando qua. Ieri avevo guardato nel video di uno che nel quartiere e con un'arma di guerra dicendo che voleva ammazzare gli indigeni. Perché davvero questa gente pensa tutto quello, è spaventata che va a arrivare il comunismo, è spaventata che diventeremo Venezuela, è spaventata di tutto questo, è spaventata e anche armata. Quindi figurati, il fascismo nel 30 a Italia, un sacco di coglioni con l'arma. Sì, questa è l'aggravante, Nelson, che comunque in Colombia buona parte della popolazione, anche civile, è in dotazione di armi e quindi può intervenire sulla folla. Abbiamo visto la settimana scorsa nella città di Pereira un episodio gravissimo nel viadotto dove per esempio un veicolo privato si è avvicinato alla folla mostrando e suonando il clacson cercando di mostrare un'apparente solidarietà alla folla e poi hanno sparato verso i manifestanti. Questi sono i tipi di episodi a cui ci riferiamo, oppure anche episodi di violenza in cui che sono registrati anche nel giorno di ieri, dove sparavano a Cali dalle case private, sparavano sulla mobilitazione. Quindi questo, c'è una violenza privata elevatissima. E poi anche oltre alla violenza istituzionale dello Stato, dell'esercito, e non so se vuoi spendere anche qualche parola, Nelson, sulla violenza delle SMAD in questi giorni e spiegare un po' che cos'è le SMAD e che quale ruolo ha avuto nella violenza in questi giorni, ma una violenza che ormai è originata da fin dalla sua fondazione, che diciamo quanti morti ha causati ancor prima di questa mobilitazione di quest'anno. Certo. No, questo è un corpo di repressione che è stato fondato per la polizia per il controllo di tutta la manifestazione sociale. E quindi in un contesto dove c'aveva una confrontazione di carattere armato, quando c'aveva la guerriglia, l'ESMAD quello che faceva era una repressione contro un movimento sociale che era guardato per Colombia, per la società, diciamo, civile, questa buona gente, diciamo, come una parte di quello corpo armato ribelle. Quindi la gente giustificava l'azionare repressivo dell'ESMAD in contro della manifestazione. Quello che succede proprio ora è che, come non c'è una guerriglia che si può dire va bene, c'è l'infiltrazione della guerriglia, la manifestazione non c'è, quello che stiamo guardando è che c'è un corpo repressivo che è senza mando, non sappiamo chi dà la ordine di ammazzare, perché questa è la ordine, ammazzare tutti quei ragazzini che sono nelle strade la notte. È un corpo di repressione nero, si vestono tutto di nero, vanno bastonando gente, c'è un sacco di video dove bastonano donne, dove bastonano gente vecchia, bambini anche, c'è bambini. La settimana bambini. Indietro avevo guardato un video a Medellin dove hanno bastonato un ragazzo con sindrome di Down che erano difendendo alla sua mamma. Hai capito questo livello di brutalità? E quello succede, no? Ogni giorno alle strada, e non si può fare niente, non si può fare niente, devi alzare la mano e sopportare la bastonata. C'è un sacco di video, ricordati, ci abbiamo più di 500 persone, compagni, fratelli, che non lo sappiamo dove sono. Ieri ci avevo guardato un video dove le ragazze erano gridando, non lo sappiamo dove, magari perché erano facendo la sua tomba, hai capito? Questo è il livello, questo è il livello, questa è una macchina di guerra che sta fuori nella strada combattendo un nemico che non esiste, combattendo la sua gente, combattendo la gente che fuori manifestandosi. Adesso non è difficile risponderti onestamente, perché quello che stai dicendo è veramente faticoso da ascoltare. Purtroppo qui dall'Italia, cioè, sì, possiamo, vediamo naturalmente tutta la solidarietà di cui siamo in grado, però più oltre che farvi parlare e farvi raccontare un po' la vostra storia, purtroppo al momento non ci viene in mente di fare. Se ti va bene, adesso è una cosa che propongo in diretta anche a Jack. Oggi lo stiamo facendo come momento legato alla speciale occasione, alla situazione che sta vivendo la Colombia, ma potrebbe essere una cosa interessante risentirci in maniera un po', come si dice, a cadenza fissa, per parlare un po' meglio della Colombia in generale, del Sud America, di quello che sta succedendo, anche perché ovviamente, a parte il fatto che tra poco inizierà un altro collegamento con altri compagni sempre dalla Colombia, la questione è che della Colombia si sa poco. Per esempio, io mi domando quali sono in questo momento le forme parlamentari di politica della Colombia, cioè quali sono i partiti, se ci sono, ma penso di no purtroppo, dei partiti che sono a favore di queste rivolte, che vogliono distruggere questo tipo di governo della Colombia, qual è il rapporto con l'altro grande soggetto che tu prima citavi, un'autorità legata al narcotraffico. Ecco, parlare nello specifico di cos'è il commercio di stupefacenti in Colombia, chi lo gestisce, perché qualcosa che magari noi italiani possiamo un po' capire, perché qui la mafia ha più o meno magari lo stesso peso nella società e lo stesso metodo di controllare il territorio, o alla fine è la, cioè, insomma, sono tutti e due capitalismo, forme di capitalismo criminale che gestiscono il territorio in una maniera loro specifica. Per cui, nel senso, la questione è che, non lo so, da qui noi iniziamo a parlarne oggi e spero che ne parleremo ancora altre volte, e se hai voglia di farti chiamare ti richiameremo, sicuramente ti faremo chiamare da Jack. Abbiamo capito che un po' ne mastica di qualcosina sul Sud America. Quando vuoi. Grazie Nelson. Noi qua stiamo resistendo. No, grazie mille a voi. Noi qua stiamo resistendo anche dall'arte. Quindi davvero che sì, c'hai l'opportunità di guardare qualcosa che stanno facendo i compagni, è davvero bello, perché anche stiamo resistendo dalla creatività. Quindi niente, un forte abbraccio, grazie mille per la chiamata e niente, resistiamo tutti insieme. Grazie mille Nelson, un abbraccio. Ci sentiremo ancora, ci sentiremo ancora Nelson, a presto. Certo di sì, dai. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Non è facile. No, no, andiamo avanti un attimino, dai, giusto un paio di commenti a caldo. Non è facilissimo ascoltare una cosa del genere, eh? Quando ti dicono che li stanno ammazzando, li sparano addosso ogni sera. È una triste realtà, una roba da qua in Italia non si è purtroppo abituati in questo momento, però purtroppo in Colombia è la cruda realtà che ha descritto con molti dettagli Nelson, ed è la trasformazione urbana di un conflitto che già da molti decenni si vive nelle campagne. Quindi quello che sta succedendo in questi giorni nelle principali città non è che la prosecuzione di un conflitto armato e sociale che si riversava prima nelle campagne. Ovviamente adesso ha una visibilità molto maggiore, perché ci sono Twitter, ci sono tutti i social media, chiunque può girare un video e può dargli un impatto e una visibilità maggiore. Però le campagne hanno sempre vissuto questa realtà. I massacri in questi anni sono aumentati, solo nel 2021 si sono già realizzati 35 massacri nelle campagne principalmente, i 1200 morti dalla firma dell'accordo di pace di leader sociali, difensori dei diritti umani, difensori del territorio, popolazioni indigene, come ha affermato prima Nelson, comunità LGBT, maestri, sindacalisti. Quindi tutti soggetti che non si allineano all'alto, esatto, potere, tutti coloro che pensano diverso, sì? Quindi questo è il clima generale in cui si presenta la confrontazione di questo momento. Oltre agli 250 ex combattenti delle FARC uccisi dalla firma del trattato di pace, che comunque affronta una serie di difficoltà in questi anni. Io credo che sia un dato di fatto sostenere il fallimento di questo accordo di pace, tant'è che alcuni gruppi si sono riarmati nuovamente, hanno armato dei gruppi dissidenti delle FARC, come diceva Nelson. Poi ci sono altre formazioni armate, quali l'LN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, ci sono anche altri corpi armati quali l'EPL, che ha alcuni tratti in certi casi, in certe zone del paese, quasi paramilitari. Quindi anche quello è una cosa stranissima. Sono sempre di estrema sinistra o di erano sinistra, un gruppo maoista, pensa, maoista. In Colombia il maoismo. Però ha firmato nel 91 un accordo di pace separato insieme all'M19 e insieme a un'altra guerriglia, e si sono reinseriti. Però molti di loro hanno assunto già non più una mobilitazione politica, ma hanno continuato a delinquere dal punto di vista magari soprattutto narcotraffico e controllo sociale in certe zone del paese. Hanno certe bastioni territoriali che sono le loro roccaforti. E poi ci sono appunto le LN, che dicevo prima, che si sono espansi territorialmente, hanno praticamente raddoppiato la loro struttura militare negli ultimi anni dalla firma dell'accordo di pace con le FARC. Ci sono anche stati molti casi di ex militanti delle FARC che sono entrati nell'EN, nonostante le diverse dottrine politiche, certo, e ideologiche. Quindi certo, sì. Allora scusami, ti devo interrompere, peccato che salutiamo Emanuele e anche Lorenzo che si sono appena collegati su Zoom. Se voi non li vedete, ma li sto sventolando la manina perché li saluto. E allora noi lasciamo una traccina, giusto un due minuti, per dare il cambio a chi viene dopo di noi al microfono. E vi salutiamo, vi ringraziamo e chissà se non ci sentiremo ancora presto su queste cose, su questi argomenti. E Jack, se vuoi rimanere, ovviamente puoi rimanere, ma anch'io rimango qua in studio tra un attimino. E ci vediamo tra 2 minuti e 23. Vadi, vadi. Già, siamo in diretta? Sì, adesso sì. Benvenuti a Radio ZM. Siamo in collegamento con Lorenzo e Emanuele, un compagno colombiano, e adesso scambieremo due chiacchiere. Se Lorenzo ci vuole presentare l'ospite. Sì, il nostro ospite è un integrante del Banco de Memoria, che è un comitato, un collettivo di informazione che cerca di raccogliere materiali sulle proteste, sulla repressione delle proteste di questi giorni, per poter testimoniare e soprattutto anche da poter usare magari un domani in eventuali processi, sperando che ci siano ovviamente. Bienvenido, Manuel. Hola. Bueno, aquí serían buenos días, para ustedes serían buenas tardes. Gracias por este espacio y por poder aclarar algunos temas del paro en este momento, sobre todo en la ciudad de Cali, que es donde me encuentro. Grazie dell'invito. Oggi parlerò soprattutto delle proteste della città di Cali, che è dove mi trovo in questo momento. Ringrazialo per la partecipazione a questa iniziativa e esprimiamo solidarietà per quello che sta succedendo. Muchas gracias por la disponibilidad y todo el apoyo de parte de nosotros. Bueno, perfecto. ¿Quisieran empezar ustedes con alguna pregunta? Ah, sí. La pregunta es, espera que te la... Perdón. La primera pregunta, quería saber si querías darnos una explicación de la razón por la cual desgraciadamente Colombia he visto muchas veces afuera de Colombia, vista como estereotipadamente como casi solo por el narcotráfico, por el tema de la violencia y nada, si tenías algo para decir una decimos. ¿Cuál es la razón de esta visión estereotipada que tenemos? Sí, creo que para entender un poco como esa dimensión en la que nos han puesto casi exclusivamente, hay que entender todo el ejercicio de la industria audiovisual y sobre todo como de la imagen que ha dejado las series de televisión en los últimos 10 años. Per capire questo stereotipo bisogna capire come funziona l'industria dell'intrattenimento e soprattutto dell'audiovisuale, delle serie che hanno parlato della Colombia negli ultimi anni. Y con esto no niego que somos un país productor de cocaína, eso sería mentir, pero ese estereotipo reduce de manera peligrosa nuestra posición político, social y cultural ante el mundo. Con questo non voglio negare che la Colombia sia un paese produttore di cocaina, però questa visione unicamente sopra il narcotraffico indebolisce le nostre possibilità di visione e di espressione sociale e politica. Además, il narcotraffico è un tema che ha servito moltissimo per reprimir movimientos sociales y para mantener una lucha armada y un presupuesto de guerra que al país le significa una pérdida sustancial en otros campos como la educación y la salud. Inoltre la guerra al narcotraffico è stata una scusa utilizzata dal governo per reprimere i movimenti sociali e per avere accesso, diciamo, poter spendere soldi nel militare e nelle forze armate in maniera spropositata, togliendoli all'educazione e ad altri servizi. Creo que al igual que pasa en México, la lucha contra el narcotráfico es una excelente cortina de humo para crímenes propios del Estado y para decisiones macroeconómicas que tienen que ver mucho con la intervención norteamericana en este país. Come succede in Messico, il narcotraffico è usato molto spesso come tappeto per nascondere i problemi strutturali e sociali di questi paesi e le, anche causati dalle ingerenze, dalle politiche nordamericane, statunitensi. Solo concluiría diciendo que a modo personal me parece que las decisiones de fomentar la imagen de Colombia como país narcotraficante a través de series que hacen apología a figuras como Pablo Escobar o otros capos del narcotráfico en este país es en realidad una mirada que nos está costando hoy el hecho de no tener realmente un enfoque en los problemas más graves de este país, como por ejemplo la corrupción y la pobreza intensificada. Inoltre l'attenzione che ha portato al problema del narcotraffico queste serie sta sviando l'attenzione anche nel paese dalla soluzione delle vere problematiche. Bueno, creo que eso es en términos generales. Podría darle cifras, pero creo que las cifras realmente no nos hablan de los componentes humanos que hoy nos agobian. Bueno, si queréssimo un'altra pregunta, la hago anche in italiano. Sì. Per le poche informazioni che ci arrivano, la Colombia sappiamo che è un paese molto grande e molto contraddittorio, con città e quartieri molto benestanti e comparabili con alcuni quartieri degli Stati Uniti e altre parti con condizioni di vita molto dure, con molta violenza, molta criminalità. Ci potresti fare un disegno generale della società colombiana? Voy a tener la pregunta, así que anda. Sí. Bueno, yo creo que para entender la situación colombiana hay que tener como claro que este es un país que presenta graves índices de desigualdad. De hecho, desde los datos de la CEPAL, que es como el Centro Económico para América Latina de las Naciones Unidas, se dice que nosotros somos el segundo país con mayor desigualdad de Latinoamérica, solo ubicado después ubicado después de Brasil. Per capire Colombia bisogna capire che è un paese dominato da grandi diseguaglianze. Secondo i dati è il secondo paese dell'America Latina come livello di diseguaglianza dopo il Brasile. Nuestra pobreza monetaria en esta forma de medirlo, que es muy capitalista, que es a través del costo de necesidades básicas de alimentación, alojamiento, transporte y servicio público, dice que hoy nos encontramos por encima del 40% de pobreza. La maniera di studiare la povertà economicistica occidentale, che vede l'unico dato interessante come la spesa pubblica, gli porta ad essere molto in basso in questa nella classifica, diciamo. El tener más o menos el 40% de pobreza hace que hoy entendamos por qué el paro está siendo tan significativo. Avere il fatto che hanno il 40% di povertà è importante per capire perché oggi questo sciopero, questa mobilitazione sia così significativa. In Colombia, le ultime riforme que tenemos presentes desde el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002 hasta el presente, han fomentado unas brechas muy fuertes entre el campo y la ciudad, y dentro de la ciudad, entre las poblaciones más pudientes y las poblaciones más pobres. Le riforme iniziate con Uribe nel 2002 hanno portato ingrandirsi del divario tra le città e il campo e anche nelle città tra le zone più diciamo più periferiche, più povere e le zone più ricche. Se dice che in Colombia il 20% della popolazione con maggior ingressos tiene 10 veces más de que todo el capital que tiene el 20% de la población más pobre. Il 20% della popolazione più ricca ha tanta ricchezza quanto il resto della popolazione più povera. Y a nivel como de subsistencia, el 50% de los hogares en Colombia tiene que vivir con un ingreso informal. Tiene el 50% delle case deve vivere di economia informale. Todo esto para decir que a diferencia del paro que se dio en el 2019, que estaba realmente potenciado por la clase media, este paro del 2021 está fortalecido y está siendo presente y realmente es duro porque es de la población más pobre. Al contrario, cioè a differenza delle mobilitazioni del 2019, che erano soprattutto anche di classe media, queste mobilitazioni stanno avendo un altro impatto perché sono delle zone, delle parti che coinvolgono la popolazione più povera. Nos encontramos realmente bajo una sociedad que hasta el momento no había tenido una participación tan significativa y tan política de los estratos más pobres. Fino a questo momento non avevamo ancora visto una mobilitazione così significativa, con un appoggio così, così grande da parte della popolazione povera. Sobre todo que es un apoyo político, porque cuando hablamos de lo político entendemos que hay una dimensión de análisis y de perspectiva crítica de la población frente a lo que hace el Estado colombiano, frente a las decisiones de un gobierno como el actual. Soprattutto l'appoggio politico, perdón, ¿puedes repetir? Sí, que una postura política como la que yo estoy diciendo que se está asumiendo hoy desde los estratos más populares, implica una mirada critica a las decisiones del gobierno actual. Una mobilitazione politica così forte, diciamo, deve causare anche un cambio di sguardo da parte della dirigenza politica, della classe politica. Bueno, para entrar como en el asunto de la situación actual del paro. Per iniziare a parlare della situazione specifica dello sciopero. Este contexto nos ha llevado a entender que el paro nacional no es de un accionar centralizado ni perteneciente a un solo partido político. Questa mobilitazione non ha una specifica riferimento politico o una specifica direzione politica, cioè è molto trasversale. È un azionar autonomo, locale, decentralizzato e orizzontale. Autonomo, locale, decentralizzato e locale. E orizzontale. E orizzontale. De hecho, in Cali tenemos 18 puntos de resistencia. In Cali ci sono 18 zone di resistenza, 18 punti di resistenza. Los cuales hoy muchos de ellos amanecieron militarizados y con presencia de la fuerza pública. Dei quali molti oggi si svegliarono militarizzati e con una forte presenza di forze armate, delle forze pubbliche. Yo no sé si ustedes conozcan las cifras actualizadas de crímenes de Estado en Colombia, pero desde que empezó la protesta el 28 de abril al 8 de mayo llevamos 47 personas asesinadas. Dal 28 aprile ci sono perdón, ¿cuántas? 47 personas. 47 persone uccise da parte delle forze dello Stato. 35 de esas 47 personas son de Cali. 35 di queste persone sono di Cali. Se han registrado oficialmente 963 detenciones arbitrarias. Si sono registrate 937 arresti arbitrari. 363. Llevamos 12 casos de violencia sexual dirigidos hacia mujeres. 12 casi di molestia, di abuso sessuale rivolti alle donne. 548 desaparecidos. 514 scomparsi. 28 víctimas heridas en los ojos. 28 vittime di ferite agli occhi. En total llevamos más o menos 1876 hechos violentos por parte de la policía. totale sono 1866 atti di violenza da parte dello Stato. Estas son cifras dadas por Indepaz y la organización Temblores. Queste sono cifre di Indepaz e l'organizzazione Temblores. Temblores. Me gustaría también como compartirles que la situación, a pesar de lo difícil que se ve, hoy también tiene escenarios de esperanza. Mi piacerebbe farvi vedere come questa situazione, nonostante sia disperata, ha comunque degli orizzonti di speranza. Y eso sobre todo se ve en la creación de nuevos colectivos y de un accionar social mucho más maduro que el que hemos tenido en dos décadas de gobierno de ultraderecha. E questo si vede dalla maggiore organizzazione, il nascere di nuovi collettivi e movimenti sociali più forte che negli ultimi vent'anni di governo dell'ultradestra, dell'estrema destra. Ahora, el día de ayer, parte de los que, de las, como de los sindicatos fuertes y algo que en algún momento se llamó el Comité del Paro Nacional, intentó tener una mesa de diálogo con el presidente, la cual no surgió nada bueno, no se logró ningún diálogo efectivo. Perdón, ¿podría repetir la primera parte? El Comité del Paro Nacional, que es una organización que ya no dirige el paro como de manera nacional, pero sí es como una entidad importante porque agrupa sindicatos, se reunió ayer con el presidente en una primera mesa de diálogo. Ah. Il comitè della generale del paro, come se fosse il coordinamento generale dei sindacati, si è riunito ieri con il presidente, ma non è stata una riunione soddisfacente. Esa situación nos puso de nuevo frente a una decisión que está tomando este gobierno de manera deliberada y totalmente consciente de perpetuar el conflicto entre la sociedad civil y las fuerzas de orden público. Questo sottolinea, diciamo, la non volontà di pacificazione da parte anche del governo, ma una volontà conflittiva che probabilmente continuerà tra l'ordine pubblico e il movimento, diciamo. De hecho, en la ciudad de Cali, distintas organizaciones, como por ejemplo el Observatorio de Realidades Sociales, la Arquidiócesis y la Guardia Indígena, empezaron un proceso súper importante de mesas de diálogo con las comunidades de base, es decir, con los barrios. En Cali, ¿correcto? Sí. En Cali, l'osservatorio de realidades. De realidad, un arcivescovato. Sí. El arquidiócesis es como una entidad. Religiosa, pero que está como muy a favor de la población. La arquidiócesis, que es una parroquia nuestra, y la guardia indígena. Que se reunieron con los barrios, como las comunidades más de base. Se son reunidos con i comitati di quartiere. Y esas mesas que estaban sirviendo para poder crear como corredores humanitarios, fueron desmontadas. Che stavano sviluppandosi per cercare di creare un corridoio umanitario, sono state smantellati. Prodotto dell'aggressione alla Guardia Indigena hace dos días. A causa di un attacco alla Guardia Indigena di due giorni fa. Donde resultaron 9 personas heridas di impacto de bala. Dove 9 persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco. En realidad, en Colombia, lo que ha sido la decisión, nuestra decisión como movimientos sociales de tener un paro pacífico, nos está implicando muchos muertos. Di fatto, la decisión de intraprendere un sciopero pacífico ci sta portando ad avere molti morti. Bueno, eso podría decirles hasta ahora. Un'altra domanda, appunto, per capire la politica colombiana con gli occhi di un occidentale, bisognerebbe capire la tradizionale divisione tra liberali e conservatori. Che ruolo ha avuto Álvaro Uribe, la destra colombiana, negli ultimi 20 anni? Bueno, si querías hablar un poco de la cuestión del uribismo y el gobierno de extrema derecha de los últimos años, como... Sí, me parece que es importante entender que la presencia de la ultraderecha en Colombia es algo que se ha venido engendrando desde mucho antes. Es molto importante capire che la presenza dell'estrema destra in Colombia è qualcosa che viene formandosi da molto tempo prima, da molto tempo fa. E si è concretò nel 2002 con l'elezione di Álvaro Uribe Vélez. E si è concretizzata nel 2002 con l'elezione di Uribe. De ahí en adelante, la verdad es que no hemos tenido chance desde la izquierda de tener un accionar político más beligerante. Da quel momento non abbiamo avuto possibilità da parte della sinistra di avere una forza politica un po' più combattiva. Ahora, nel 2012 al 2016 se lograron establecer los acuerdos de paz con las FARC. Dal 2002 al 2016 sono riusciti a fare gli accordi di pace con le FARC. Algo che stava migliorando la condizione economica del paese e le condizioni per un miglior cammino politico. Cosa che stava migliorando l'economia del paese e anche dando speranze di un cammino pacifico. Sin embargo, desde hace dos años hemos vivido una reiterada acción estatal y paramilitar en contra de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Però negli ultimi anni, negli ultimi due anni ci sono stati svariati attacchi da parte a sindacalisti e appartenenti a movimenti sociali ed ex combattenti. De enero del 2021 a marzo del 2021 tuvimos 52 asesinatos a líderes y lideresas sociales. Da gennaio 2021 a marzo 2021 ci sono stati 52 leader sindacali e di movimenti sociali uccisi. E l'assassinato di 21 ex combattenti della FARC che firmarono gli accordi. Hanno ucciso 21 degli ex guerriglieri delle FARC che avevano firmato l'accordo di pace. En realidad el país hoy se polariza entre quienes creen que debe seguir una política paramilitar casi de un narcoestado. En verdad, al giorno d'oggi el país se divide tra chi vorrebbe continuare sulla via paramilitare del narcoestato, del narcostato. Y una política más humana, mucho más social, no es ni siquiera una política realmente de izquierda, propiamente dicha. E una politica più umana, anche non propriamente di sinistra, ma anche solo pacifica e democratica. Sin embargo, estas acciones últimas que hemos visto del gobierno actual demuestran que ante su debilitamiento y el temor de perder el poder, van a seguir haciendo acciones de lesomanía. Però vediamo che come si mette in discussione l'egemonia della destra la destra rimane commette crimini di lesa umanità. Perdona, chiedo scusa se possiamo fare un piccolo staccato musicale e poi ti rimando il link di Zoom e ci ricolleghiamo al volo, che quel tempo sta terminando. Perfetto, sta terminando il tempo della chiamata, nos apagamos, ponen un tema e volvemo a connectarnos. Vale. Gracias. E mo ci sentiamo Pino Daniele. Buon intenditor, poche parole. Sorriderò, piangendo forse un po'. Ed eccoci tornati con i nostri compagni dalla Colombia. Continuiamo il discorso e se vogliamo magari portare l'attenzione più sui giorni di adesso, magari facendo un piccolissimo excursus, se ci sta, sul piccolo processo che ha portato alla pacificazione delle FARC e magari se ci racconta un po' più nel dettaglio le mobilitazioni di adesso e quelle future, magari le pratiche che hanno messo in campo, eccetera, eccetera. Sí, Manuel, nos estabas hablando del proceso de pacificación de la FARC, si querías terminar un poco con el discurso este y después darnos un poco un dibujo de lo que está pasando al día de hoy y la temática, las acciones y la perspectiva y lo que te parece importante como transmitir de lo que está pasando. Bueno, solo para cerrar con el tema de lo de la paz. En realidad, se ha dicho que la reforma tributaria en Colombia es como la excusa o es el motivo del paro nacional. Verdad, la reforma tributaria es la excusa, la razón, la razón específica del inicio de los sciopero, pero en verdad las causas son más profundas. La reforma tributaria fue como la gota que derramó el vaso, pero no es la única causa. Es la gota que ha hecho traboccare el vaso, pero no es la única causa. Y una de ellas, y una de las más importantes, ha sido el incumplimiento de los acuerdos de paz. Forse la più importante è stata il mancato compimento degli accordi di pace. En el caso, por ejemplo, de las FARC, se han dado como grupos de disidencia y un rearme que va a ponernos de nuevo en una situación de mucho conflicto y probablemente muchas más muertes. En el caso de las FARC, En el caso de las FARC, el incumplimiento ha creado que se den grupos de disidencia y rearme. Nel gruppo delle FARC, questo non compiere gli accordi di pace ha portato a un riarmo di alcune cellule, e quindi innescando un'escalation di violenza. Las otras dos razones importantes a considerar en el acuerdo de paz tienen que ver una con una reforma pensional que es delicadísimo. Le altre due cause di questo sciopero sono principalmente la riforma delle pensioni, che è una questione molto delicata. Perché affetta soprattutto alla generazione che va a iniziare ahorita a ricevere questo ausilio sociale, che è un ausilio per il che lavorarono tutta la sua vita. Perché è una riforma che attacca soprattutto quelle persone che si stanno andando in pensione adesso e che hanno lavorato tutta la loro vita per andare in pensione in questo momento. E l'altro tema è la ley che si sta proponendo per ristrutturare una vez más il sistema di salute che già veniva affettato. E l'altra questione è la legge che sta cercando di riformare il sistema di salute, che già la sanità, che già era era messa male. Habíamos vivido una privatización profonda del sistema de salud. Avevamo vissuto una privatizzazione profonda del sistema di salute. Y ahora se quiere que el sistema de salud se acerque al modelo norteamericano, o sea, y ahora si vorrebbe cercare di avvicinare la salute pubblica al modello nordamericano statunitense. Bueno, todo esto además se le suma una pésima gestión del gobierno actual frente a la pandemia. A tutto questo ci si aggiunge una pessima gestione della pandemia da parte del governo attuale. Che nos ha hecho pedir un fondo al Fondo Monetario Internazionale. Che ci ha fatto chiedere un prestito al Fondo Monetario Internazionale. Che oggi nos quieren hacer pagar a la clase media y a los más pobres. Che oggi vogliono far pagare alla classe media e ai più poveri. Es realmente un gobierno que vela por los intereses de las empresas privadas y multinacionales y obvia por completo las condiciones de pobreza de la mayor parte de la población. Es un gobierno que fa esclusivamente gli interessi delle multinazionali e della grande impresa e che ignora totalmente i problemi della popolazione più povera. Todo esto para decir que la gente más pobre no tiene nada que perder. Tutto questo per dire che i poveri non hanno niente da perdere. Ya ni siquiera tienen miedo de perder su vida. Già non hanno nemmeno paura di perdere la vita. Lo cual es muy triste porque la vida es muy importante y no podemos poner en riesgo. Perché è molto triste perché la vita ovviamente non è da è molto importante, non è da mettere in pericolo. Hoy vi por primera vez un comunicado de Baltasar Garzón, que es quien está poniendo el juicio contra Pinochet y ahorita contra Piñera. Hoy he visto un comunicado de es un abogado. Sí. Y del abogado que está haciendo los procesos a Pinochet y a las cuestiones de la dictadura chilena. Llamado Baltasar Garzón. Baltasar Garzón se llama. Y hoy advirtió al gobierno de Duque que sus accionar son accionares de penables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha advertido Duque que le sue acciones son acciones sancionables da parte de la Corte Americana de Derechos Humanos. Que se suma además a los múltiples comunicados de senadores en Estados Unidos pidiendo al gobierno colombiano que deje de accionar de manera tan violenta contra los manifestantes. Que se aggiunge anche a numerose dichiarazioni di senatori degli Stati Uniti che invitano Duque a smettere a mettere in fine alla repressione. La situación en este país es tan complicada que hace unos días fue atacada la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas por las fuerzas públicas. La situación es così grave que due giorni fa è stata attaccata la sede delle Nazioni Unite da parte delle forze pubbliche. La Comisione de Verificación. Comisión de Verificación de las Naciones Unidas. La Comisione di Verificazione delle Nazioni Unite da parte delle forze armate. Es muy fuerte porque hoy el mundo entero, desde personas del Parlamento Europeo hasta organizaciones como WOLA en Washington, están pidiendo que el mundo se enfoque en estos crímenes de Estado. È molto impattante perché diverse forze, sia europee che nordamericane che statunitensi, stanno dicendo di concentrare l'attenzione su quello che sta succedendo in Colombia. Y hay cierta esperanza de que el gobierno actual de Biden, gobierno al que el gobierno de Colombia no apoyó. C'è la speranza che il governo di Biden, che è un governo che il governo attuale colombiano ha appoggiato. No, de hecho el gobierno colombiano apoyó a Trump, no apoyó a Biden. Ah, che aveva appoggiato a Trump. Ajá. Hoy esperamos que este gobierno de Biden realmente aplique sanciones al gobierno colombiano. Speriamo che il governo americano imponga delle sanzioni al governo colombiano. Sobre todo porque ha sido de los países que más le ha dado para reprimir la protesta social. Soprattutto perché Stati Uniti è stato fu il paese. Sì. Perché gli Stati Uniti sono stati il paese che hanno fornito più armi alla Colombia anche per reprimere le proteste sociali negli anni. Para darles contexto de lo que ha sido el día de ayer, de ayer a hoy. Per darvi un'idea di quello che è successo in queste ultime ore, tra ieri e oggi. La situación de la ciudad es que nos hemos levantado con todos los puntos de resistencia militarizados y con presencia de las fuerzas de orden público. Tra ieri e oggi siamo svegliati con tutti i punti di resistenza occupati dalle forze armate e militarizzati. Ayer tuvimos 20 heridos de bala en el sector de Siloé. Ieri ci sono stati 20 feriti da arma da fuoco nel settore di Siloé. Dos detenidos en la portada. Due arrestati alla portada. Dos más heridos de bala en el sector de Calipso. Due altri feriti d'arma da fuoco Calipso. Y se están confirmando el asesinato de tres personas. E si sta confermando l'omicidio di tre persone. Realmente cada día nos levantamos con la sensación de que es más y más fuerte la violencia y el impacto de este gobierno contra los movimientos sociales. Ogni giorno ci svegliamo con l'impressione che sia sempre maggiore la violenza e l'aggressività del governo nei confronti dei movimenti sociali. Bueno, si tienen alguna pregunta. Se c'è qualche domanda alla radio. Sì. C'è Giacomo che vuole fare una domanda. Prego. Sì, ciao Emanuele. Grazie per l'appoggio e per stare qui. No, che io queria preguntarti, perché crees che Cali si convirtió en el epicentro de la protesta, sí? En la conexión anterior hemos hablado un poco de la Guardia Indígena, hemos hablado un poco de la historia de movilizaciones del Valle del Cauca. Pero también quisiéramos hablar de lo que está pasando en Cali específicamente. Quindi, perché, grazie Emanuele per essere qui presente, perché pensi in questa protesta di questo 2021 Cali, la città di Cali, la capitale del Dipartimento del Valle del Cauca, si sia convertita nell'epicentro delle proteste di questi giorni? Abbiamo parlato nel collegamento precedente della storia organizzativa del movimento indigeno, della Minga, abbiamo parlato, e vorremmo sapere cosa pensi di questi episodi di violenza, ma anche di mobilitazione e resistenza nella città di Cali. Grazie. Bueno, muy buena pregunta. Creo que Cali hasta ahora es una de las ciudades con mayor importancia geoterritorial de Colombia. Una buena domanda. Cali, al giorno d'oggi, es la zona più importante a livello geopolítico, dijiste. Ajá. Locale. Nosotros somos considerados, bueno, digo nosotros refiriéndome a Cali, somos considerados la capital del suroccidente colombiano. Noi di Cali siamo considerati la capitale della zona sudoccidentale della Colombia. Somos además la ciudad más cercana al puerto más importante del Pacífico, que es Buenaventura. Siamo la città più vicina al più grande porto sul Pacifico, che è Buenaventura. Y además somos la conexión con uno de los departamentos más críticos en términos políticos y económicos de Colombia, que es el Cauca. En più siamo collegati alla zona più critica a una delle zone più critiche della Colombia, che è il Cauca. Entonces, en realidad Cali es una de esas ciudades que creció muchísimo en los 70 gracias a las industrias, sobre todo la industria de la caña. Cali è una città che è cresciuta moltissimo negli anni 70, soprattutto con l'industria della canna da zucchero. Ajá. Y que eso también promovió un avance sustancial de los movimientos sindicales en esta ciudad. E questo ha promosso anche una la nascita di forti movimenti sindacali e sociali nella città. Eso ha hecho de que los 70, los 80 y los 90 Cali tuviera una presencia muy fuerte de movimientos estudiantiles, sindicales y de grupos revolucionarios. Esto ha fatto sì che Cali negli anni 80-90 abbia avuto una forte presenza di movimenti studenteschi, sindacali e armati. Revolucionarios. Rivoluzionari, sì, perdon. Sì. Creo que esa situación se vio muy golpeada durante los finales de los 90 y de los 2000 por todo este ejercicio paramilitar y por un fortalecimiento de los grupos narcotraficantes en la región. Questa situazione è stata destabilizzata tra gli anni 90 e il 2000 dalla forte presenza paramilitare e dalle strutture di narcotraffico che hanno preso piede nella zona. Y ese es el punto que hoy nos tiene como en una situación tan complicada, porque no solo es geoestratégico para el movimiento económico interno del país, sino también para la distribución de la droga en todo el mundo. E questo lo rende un punto nevralgico non solo per i movimenti sociali nel paese, ma anche per la distribuzione della droga, per il narcotraffico. De hecho, se dice que hoy estamos siendo ocupados por el cartel de Sinaloa. Di fatto si dice che al giorno d'oggi Cali sta essendo occupata dal cartello di Sinaloa. Lo cual se vincula muchísimo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Che è molto fortemente collegato all'ex presidente Uribe. Por eso esta es una ciudad que no es una ciudad que sea fácil de controlar, pero también es una ciudad a la cual no van a dejar de reprimir. Questo non è una città facile da controllare, ma non è nemmeno una città che smetteranno di reprimere. Había estado muy calma porque la situación de pobreza hacía que las personas estuvieran muy adoctrinadas y que la situación de pobreza además aumentara que nadie se rebelara. La situazione era un po' più calma per il fatto che l'estrema povertà faceva sì che la gente fosse molto indottrinata. Pero después de un año de pandemia, sin apoyos económicos del Estado y con la mayor desigualdad que puede existir en Colombia, pero dopo un anno di pandemia, con la mancanza totale di qualunque aiuto da parte dello Stato la seconda parte. Non hanno più niente da perdere con la povertà che già veniva prima. Dopo un anno di crisi economica senza aiuti da parte dello Stato, la popolazione di Cali è allo stremo. In realtà credo che Cali era una olla di pressione che in algún momento tenía que reventar. Era una pentola a pressione che prima o poi doveva scoppiare. Tu, Giacomo, hai altre domande? No, io più che altro volevo sapere come la vedi, qual è la prospettiva di questi giorni. Sappiamo che le mobilitazioni andranno avanti, lo sciopero è uno sciopero indefinito, quindi non ha un termine stabilito per ora. Abbiamo visto ieri, nella giornata di ieri, lunedì, un primo avvicinamento con il comitato del paro e il dialogo con il governo, che però non ha portato da nessuna parte. Abbiamo parlato anche prima delle difficoltà di portare avanti un accordo in un paese in cui gli accordi si firmano ma non si rispettano, quindi vorremmo sapere come la vedi tu, nel senso se ci sono prospettive che questo si firmi un accordo e si smobiliti tutto o questo paro va avanti perché nadie lo para. Es decir, una pregunta es, queríamos saber si... después del encuentro, el primer encuentro que hubo en el día de ayer, el diálogo entre el gobierno nacional y el comité de paro, que no encontró ningún tipo de solución hasta la fecha, ¿cuáles van a ser los escenarios posibles para usted? ¿Cuál va a ser la perspectiva? ¿Y en qué sentido ese paro no se va a dejar parar por un intento de diálogo que de toda manera no va a llevar a ninguna solución? En Colombia tenemos tenemos muchos incumplimientos de todos los acuerdos que se han firmado históricamente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en tu visión sobre lo que podría ir ocurriendo? Gracias. Bueno, es una pregunta que últimamente nos hacemos todos. Una pregunta que facciamo tutti últimamente. Porque definitivamente este Estado quiere hacer un ejercicio dictatorial en el que salgan librados de un acuerdo más profundo y que les exija cumplir ciertas cosas. Lo Stato sta cercando di fare un esercizio dittatoriale che gli eviti di stringere qualunque accordo e di doverlo poi rispettare. In realtà, sus cuatro estrategias hasta el momento ha sido crear como mesas de diálogo por debajo de la mesa con colectivos o movimientos que no representan el paro. Di fatto la sua strategia è stata creare tavoli di dialogo, sottotavoli di dialogo con movimenti che non rappresentano lo sciopero. Reprimir el paro desde una acción muy contundente desde la fuerza pública. Reprimire in maniera molto, molto forte il movimento. Fingir una negociación política con sectores sociales que están más volcados como a la empresa privada. Rivolgere il dialogo con i settori dell'industria privata, dell'impresa. Y provocar una confrontación civil entre estratos sociales. E causare uno scontro tra diversi strati sociali. Todo esto para hacer tiempo y desgastar el movimiento social. Tutto questo per prendere tempo e far perdere di forza il movimento sociale. Y si bien a nivel sociológico podríamos decir que podría funcionarle. E anche se a livello sociologico potremmo dire che potrebbe funzionare. Cuando uno va a los puntos de resistencia se da cuenta que esto está lejos de acabar. Quando vai nei punti di resistenza ti rendi conto che questo non sta funzionando in questo momento, che è ancora lontano il punto di arrendersi. De hecho, ayer Puerto Resistencia, che è uno dei punti più importanti di incontro in Cali. Di fatto ieri Puerto Resistencia, che è uno dei punti di resistenza più importanti a Cali, leggo il pliego di petizioni al governo. Ha letto e ha fatto delle richieste al governo. Un pliego realmente hermoso y simplemente humano. Un pliego no. Hermoso. Un pliego è una richiesta, è un foglio in cui si avanzano tutte le rivendicazioni di uno sciopero in genere. En ese pliego se planteaban solicitudes tan sencillas y tan humanas como eliminar, por ejemplo, lo de la contratación por horas. In queste richieste c'erano, per esempio, la richiesta di una contrattazione, di un trattamento più umano e di contratti per i contratti. Eliminar la reforma pensional che si sta queriendo implementar. Eliminare la riforma pensionistica che si sta cercando di portare avanti. Reducir los salarios de los altos funcionarios públicos. Ridurre i salari dei funzionari pubblici, degli alti funzionari pubblici. Quitar las pensiones vitalicias de los presidentes. Eliminare i vitalizi del presidente, degli ex presidenti. Revisar los casos y las responsabilidades de las vulneraciones a personas en el paro. Lo studio, il processo dei casi di abuso durante lo sciopero. Empezar a ejecutar presupuestos participativos en todo Colombia. Finanziare una. Es más como poner en asamblea los presupuestos. Iniziare a fare dei di praticamente dei piani di produzione di budget delle amministrazioni comunali a livello autogestito e assembleare, con delle pratiche assembleari della spesa pubblica, che è una cosa che si fa in certi municipi autonomi del paese, soprattutto nelle popolazioni indigene. Se busca también que el gobierno se responsabilice de generación de empleos para los jóvenes en un país donde los jóvenes estamos hoy en día con unas tasas de desempleo altísimas. Si ci chiede anche al governo che cerchi di ridurre la disoccupazione giovanile, che al giorno d'oggi è altissima, di creare occasioni di lavoro. Y crear rutas culturales y deportivas para crear identidad y empatía. E creare dei percorsi culturali che possano creare empatia e sviluppo sociale. In realtà, se uno osserva questo pliego di petizioni, si da cuenta di che solo si sta pidiendo cose umane. Di fatto, se si guardano a queste richieste, ci si rende conto che si sta solo chiedendo questioni umane. Eso es lo que estamos ahora, en eso estamos. Sí, en esto es lo que estamos haciendo adesso. Estamos pidiendo adesso. Se Emanuele non ha altro da aggiungere, io vi ringrazio per questa testimonianza che ci avete lasciato. Vi propongo, se volete, di risentirci in questi giorni per raccontare l'evoluzione della protesta e capire come va avanti il tutto. Noi adesso mandiamo una canzoncina e poi facciamo altre due chiacchiere in chiusura, raccontando un po' le iniziative che sono state fatte e verranno poi messe in campo in questi giorni a Milano e in Italia, in solidarietà alle lotte che stanno avendo e soprattutto per cercare di dare un po' di corpo ed eco a una narrazione un po' distorta che diciamo avviene tramite i media mainstream occidentali. E quindi vi ringrazio e se vuoi tradurre i saluti. Te agradecemos por la participación. Y te invitamos, si quieres, en los próximos días a hacer otro colegamiento para actualizar así la situación y, si te parece, para hacer otro colegamiento así. Me parece genial. Qué buena invitación. Gracias. Estaremos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Ahí. Senti? Grazie a voi. Ah, sì. Ok. E niente, allora vi salutiamo, noi mandiamo una canzoncina e vi ringraziamo, a risentirci. E poi facciamo due chiacchiere ancora con Giacomo prima di salutarci. Grazie a tutti, ci sentiamo fra 5 minuti. E anche se è lunedì, ci ascoltiamo Friday I'm in Love dei Cure. Ed eccoci tornati qui a Radio ZM, sono le 19.22 dell'11 maggio 2021, perché mi hanno detto che in radio bisogna spesso dire l'orario e il giorno perché così è tutto più reale, E siamo sempre in compagnia di Giacomo, che adesso, se voglia, ci può fare una panoramica sulle mobilitazioni in corso in questo momento sul territorio. Sì, giusto per chiudere un po' il collegamento e anche vedere un po' cosa possiamo fare qui dall'Italia. E purtroppo, come avevamo descritto nel collegamento, ci sono pochi collegamenti diretti con la popolazione colombiana. E il tema dal punto di vista mediatico è interessato poco, devo dire. Sono usciti pochi articoli e è un tema che purtroppo interessa poco. E al tempo stesso la comunità colombiana qui presente in Italia ha avviato una serie di iniziative sul territorio nazionale, quindi già dal 28 aprile, quindi il primo giorno di mobilitazione, qui a Milano c'è stato un presidio a Largo Cairoli. Un presidio che appunto ha visto popolazione colombiana residente qui a Milano, ha visto Solidali della Rete dell'America Latina e anche di altri paesi e cittadini di altri paesi dell'America Latina presenti qua in città, quindi la comunità equatoriana, c'erano comunità peruviana, c'era anche una comunità centroamericana, c'erano popolazione salvadoregna e anche certi solidali italiani e cittadini italiani. Quindi è un'iniziativa che si ripete spesso, il mercoledì. Questa settimana la questura non ha autorizzato la mobilitazione per domani, quindi il permesso è stato fornito per la giornata di giovedì. Quindi giovedì 13 maggio dalle 6 alle 7 e mezza in Largo Cairoli per seguire a appoggiare il paro generale in Colombia. Poi c'è stato un altro presidio nella giornata di domenica, partecipatissimo, con 300 manifestanti, sempre in piazza Cairoli, in Largo Cairoli. E per parlare di altre mobilitazioni sul territorio nazionale, c'è stato anche sempre domenica, c'è stata un'altra iniziativa a Venezia. Poi ci sono state iniziative a Reggio Emilia, oggi si dovrebbe tenere un presidio a Bologna, nella Piazza del Nettuno, e anche so di un presidio nella giornata di ieri a Roma, realizzato a Roma alla Piazza del Popolo. Quindi comunque è un tema che sta iniziando a mobilitare permanentemente la popolazione colombiana e anche tutte le persone che decidiamo di appoggiare il popolo colombiano in questa sua giusta lotta e rivendicazione. Vi ringrazio a tutti. E noi ringraziamo te e invitiamo tutti e tutte a partecipare alle mobilitazioni che ci saranno e a, per quanto in vostro potere, seguire le nostre iniziative radiofoniche sugli aggiornamenti dai vari territori. Teniamo gli occhi puntati anche sul Medio Oriente perché, come sappiamo, è in corso per l'ennesima volta degli attacchi che perpetuano un genocidio che va ormai avanti da 60-70 anni, e parliamo della Palestina e di quello che sta succedendo a Gerusalemme Est in questi giorni. Prossimamente faremo uno speciale con collegamenti anche dalla Palestina e quindi restiamo tutti e tutte informati. Ringraziamo di nuovo Giacomo per la sua ottima partecipazione e la sua immensa sapienza sul tema. Ringraziamo tutti e tutte quelle che ci hanno ascoltato e vi salutiamo e ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Adesso mettiamo un'altra canzoncina, stavolta mettiamo i Pancreas, occhi puntati. Buonasera a tutti e tutte, ciao ciao ciao.